Allora parlo con la Zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Esagerando. È bene che qualcuno te lo dica nel coro di quanti tra gli ascoltatori ti leccano il culo, non ho capito perché. Ti devi dare una regolata, ti devi comportare da uomo, non da maschio. Questa sera, Parenzo, ti ho invitato un po' di amici tuoi, eh? Un po' di amici tuoi, così ci divertiamo un po', eh? Mi preoccupo. Ma eventualmente io ti scattino il mio amico Bistecca e il mio amico Plinio. Ma chi sono questi qua? Bistecca, Plinio, chi sono? Avrai modo di conoscerli anche alla radio presto. Il signor Bistecca e il signor Plinio, due amici di Roma. Vedrai. Vabbè, intanto la guerra tra Salvini e Tosi ancora non è finita, non si riesce a capire se Tosi molla, se Salvini lo accontenta in qualche modo, non sembra, vedremo la settimana prossima, non so se la cosa vi appassiona, oggi Tosi ha detto che mi posso anche candidare, poi è tornato indietro, non si capisce una mazza. Se loro portano avanti questa frattura, a quel punto ognuno è libero di fare quello che meglio crede, quindi Flavio Tosi può restare sindaco di Verona, può ritirarsi a vita privata, può andare in seminario o può anche candidarsi governatore. Allora, Salvini contro Pierluigi Battista, ieri sera da Porro, se ne sono dette di tutti i colori, Salvini è l'editorialista del Corriere della Sera, sui clandestini, su Buonanno, che secondo Battista dovrebbe essere cacciato dalla Lega, non si capisce perché più o meno i leghisti, non solo i leghisti, la pensano allo stesso modo, comunque Salvini-Battista. Se lei fa passare il principio civiltà, che chi nasce qua è cittadino italiano, certo, a prescindere dai genitori, sa quanti milioni di clandestini vengono tutti arrivano in Italia qua per diventare, sì, italiani? Ma già lo stanno facendo. Ma lei già questa lo stanno si facendo. Chiama paranoia. Questo si chiama in termini psicologici paranoia. Guardi, preferisco politica essere paranoico che fesso. Certo. Preferisco bene, essere paranoico si può essere che fesso. E se l'Italia ha un anche senso. Se va l'Italia bene ha un senso. Complimenti per la spocchia. Prego. Bene, bene, no, bene, se bene, lei bene mi dà del fesso, guardi, la spocchia non c'entra. Si può essere non era riferito a lei. Fessi, non era riferito a lei. Poi a un certo punto Salvini dice, vabbè, faccia le sale parto a casa sua. È un principio civile, non è, è un principio civile va questo, meritato, va che valutato, vuol dire meritato da scelto chi? Da un bambino di due anni? Ma che cosa dice no un allora bambino di due anni? Se li prenda lei, ma la che sala certo di che me li prendo mondo, io a casa sua, sono come me, non è che sua me li prendo io, migliaia sono come di clandestini me a casa di Battista, ma migliaia di clandestini a partori, i bambini perché che poi nascono in Italia, ma di che parla Salvini, che sta dicendo? Non si capisce per quale motivo, però. Grande Battista, grande. No, no, tu sei d'accordo con Battista, ma non si capisce per quale motivo. Chi è a favore? Battista non è un comunista, no, ma non è Battista. No, no, no, ho capito, comunista. Aspetta un attimo. Io dico una cosa, non si capisce perché Battista è a favore, sì, del fatto che uno che nasce in Italia, un bambino che nasce in Italia, diventa italiano. Benissimo. Perché è una cosa di buon senso. No, no, no, no, fermo, fermo. Non è che quelli che non la pensano così sono degli incivili, dei rozzi, dei bastardi, dei figli di puttana. No, è gente che la pensa in maniera diversa. No, non la fattis- non dire stronzate, perché ci sono un sacco di paesi, non dire stronzate, ci sono un sacco di paesi che non hanno questa legge qui e certamente non sono paesi incivili. Dunque, chi non vuole il cosiddetto ius soli, per capire. No, attento, sono incivili le argomentazioni. Sentiamo, ma smettila, orrore di Bonanno. Sentiamo Bonanno, Battista Salvini. È un orrore, esatto, è lo stesso ceppo da cui vengono queste. Vabbè, ma non c'entra niente, adesso stiamo parlando. Non c'entra niente. No, nulla. No. Io adesso sai di che cosa parlo, Battista? Dei campi rom. Che è un elemento su cui io vado via. Salvini. No, c'è che un va signore via, della Lega buona... che ha detto a una signora, ne rom, parliamo. Che è la feccia ne della parliamo. Società. È questo. Questa cosa qui è una cosa orribile, non è orribile. Corretto, è orribile. Però, e non vinceranno servizio, mai con queste persone il servizio, qua. Mai. Il servizio e poi dopo... Va bene, c'è un'attrice. Vedi che c'è qualcuno che si indigna. Vabbè, c'è un'attrice che si chiama un'attrice che si chiama Lella Costa, la signora Lella Costa. C'è un'attrice. Un'attrice si chiama Lella Costa, la quale sostiene. Non è una, è Lella Costa. È Lella Costa, è un'attrice, ce ne sono 50 milioni di attrici, cioè Lella Costa che dice che in metro si alzano solamente gli extracomunitari. Cioè tu vedi a che livelli arriva la follia. Cioè secondo la signora Lella Costa in metropolitana, per dire che gli extracomunitari non sono tutti brutti, sporchi e cattivi, questo voleva dire, e anzi ci sono italiani che sono peggio, questo in sostanza vuole dire, sostiene questa cosa che ovviamente non è vera, cioè che in metro si alzano solo gli extracomunitari, questo sostiene Lella Costa. Sono anche un po' stanca di questo cliché dei radical chic che leggono i libri e poi non vivono la vita. Io le assicuro che leggo molti libri, forse più dei due che lei dichiara, guardo la televisione, guardo i programmi più trash che ci sono e prendo la metropolitana. E sulla metropolitana forse vediamo, prendiamo linee diverse, gli unici che si alzano per lasciare il posto alle persone anziane sono gli extracomunitari, non tutti. Oh, gli signor Damuracès, questa è questa... questa è vera, questa... in genere sono un po' più chiunque gentili. Si alzi è persone educate. Non avete... Non vi è sfuggito il commentino della Bignardi, la quale ha detto: questo è vero, però sono un po' più gentili. Ma che cazzo vuol dire? Ma non è vero! Non è vero, ci sono quelli gentili e quelli stronzi, ci sono quelli che non si alzano, a parte che alzarsi non è mica obbligatorio, cioè non è che è un obbligo alzarsi. Cioè, sul fatto che ci siano maleducati tra tutti i gruppi. Ma è una stronzata! E non c'è obbligo. La Bignardi che dice: no, ma effettivamente è vero, questo è vero. Dopodiché ma è vero, non è vero che è un'educazione che se tu vedi un anziano in metropolitana ti alzi per farlo. Ma questo. Hai detto la cazzata no del giorno, hai detto la panzana del giorno, no, cioè la banalità del giorno. No, questo... ma siccome tu hai detto che non è obbligatorio. Ho detto che non è obbligatorio, cioè uno può essere anche distratto. No, ma la buona educazione. In quel momento io posso anche essere più stanco di un'anziana, capito? Magari mi sono fatto ma un mazzo così e sono più stanco. Tu capito? Sei stanco in testa, sei stanco oh, in testa. Basta con questo buonismo. Niente, sempre. Ma allora pisce in testa. Ma che c'entra pisce in testa? Vabbè, l'intercettazione. Aspetta. L'intercettazione. Ma guarda che sei. Aspetta, fermo. Sei una cosa orribile. Aspetta un attimo. L'intercettazione. L'intercettazione tra Belen Rodriguez e Berlusconi è spettacolare. Spettacolare, senti. Senti, adesso hai visto questa cosa su Mediaset, ti piace? Cioè, come fa a non piacermi? Io guardami in assoluto, quindi sono molto stupita e no, allora, molto molto felice. Puoi immaginare chi è stato che ha detto. Lo immaginavo, sì, assolutamente. Ne avevo qualche dubbio, ma adesso non la conferma. Va bene, anche perché avevo tante pressioni da Briatore per mettere la sua, no? Che sapeva, era già fissata, quindi ho dovuto veramente fare una pressione, ma mi sembrava giusto che tu fossi la ragazza che in questo momento, la donna che in questo momento aveva avuto veramente più popolarità, e penso che sia anche un'occasione abbastanza importante per segnalarti una persona capace. Non ti deluderò, anche so, perché farò un bel po' di cose, quindi bene bene. E vabbè, poi ne parleremo a lungo di questa vicenda qua. La cosa più curiosa è che Berlusconi dice che Briatore premeva per la sua, che sarebbe poi la Gregoraci, e invece ha scelto Belen Rodriguez. Traffico, poi un amico tuo, un alleato di Salvini dall'estrema destra milanese, caro Parenzo. Se tu canti piano, canti il mare. Canti con noi, Barone Nero, canti! Vedrai come lontano tanti voli, tricolore sventola per te. Quando portammo la civiltà in Africa, altro adesso, la Libia di adesso. Vai, vai, vai. Altro che come la Libia fa? Di adesso. Come fa la canzone? Caro Cruciani. No, vai, non avere paura di cantare Faccetta Nera. È una bellissima canzone, ma che ci ricorda tempi gloriosi, quando eravamo gloriosi, noi ad andare in Africa. Beh, e non eravamo invasi dagli africani e dai musulmani. Vabbè, adesso non esageriamo. Parenzo. Questo è fondamentale. Noi siamo andati in Africa a portare lavoro e civiltà. Vabbè, lavoro e civiltà. Attenti, anche assolutamente. In Eritrea, in Somalia, in Etiopia e in Libia. È in Libia. Vabbè, avete fatto anche, avete ammazzato anche un po' di gente durante il fascismo, un po' di neri. Ma come no? In Africa avete ammazzato un sacco di gente. Qualche perdita fisiologica. Beh, come perdita fisiologica? Ci sono perdita stati fisiologica, degli eccidi, una grande campagna di civiltà. Ma come campagna di civiltà, Yonghi? Il popolo etiope della schiavitù. Ma dai, su, vabbè, comunque avete capito, Roberto Yonghi Lavarini, detto il barone nero, che conosce molto bene, caro Parenzo, tutti i leader della Lega, anzi, è molto contento di questa alleanza, di questa svolta a destra di Salvini. Si può dire, Salvini, si può dire, Yonghi, che Salvini per lei è il nuovo duce? No, ripeto, non mescoliamo il sacco con il profano, la parte storica e la parte politica. Sicuramente però la Lega si sta spostando a destra, costruendo insieme ai movimenti della destra italiana un grande fronte nazionale come quello francese di Marine Le Pen. Vabbè, questo lo sappiamo. Senta, ma lei Mussolini... Questo è l'obiettivo ed è per questo che ho stima e simpatia per Salvini. Per Matteo Salvini quanto per Flavio Tosi, sperando che ritrovino l'unità, perché non solo la Lega, ma la destra, il futuro fronte nazionale e il centrodestra italiano hanno bisogno di tutti e due. Però Yonghi, io voglio capire una cosa, ma tu quanto sei mussoliniano? Dimmi la verità, barone. Molto mussoliniano, molto. Come percentuale? Sì, 100%. Ma direi 120-130%. Cioè, molto Mussolini. Cioè, per te Mussolini è un punto di riferimento, come dire? Direi che è un punto di riferimento per l'umanità. Ci vorrebbe una bella chiacchiera col Bistecca e Plinio, guarda. Ma chi sono questo Bistecca e Plinio? Io conosco magari è lo stesso Plinio che conosco io. Io conosco Gianni Plinio, consigliere comunale del Movimento Sociale. È un mio amico. Scusami. Ci vorrebbe una bella chiacchiera. Magari anche lei, Parenzo, può avere anche un amico intelligente. Magari non sono tutti come lei. Barone, per lei. Barone, Barone. Con acqua da tirare per lo sciacquone, guarda. Però Parenzo, se tu ti sovrapponi da Parigi al barone, non si capisce una mazza, questo è chiaro. No, allora io voglio capire una cosa dal barone. È andato a trovare Marine Le Pen, Parenzo. È andato a fare altre cose. A trovare Marine Le Pen, bravo. Però, Parenzo. Barone, io voglio capire una cosa. Sì. Salvini lo sa che lei è così mussoliniano, cioè che lei è fascista. No, sostanzialmente lei è fascista, dai. Ho le mie passioni storiche, la mia militanza. Vabbè, ma lei è fascista. Ma lei è fascista, però. Temporalmente sì, ha detto che è fascista, termine, è fascista. Mettiamoci d'accordo sul significato di questo termine. Vabbè, ma lei vorrebbe di nuovo il fascismo in Italia, diciamo la verità. Cioè, come no? Una nuova forma, non si può dire. Vabbè, ma sempre fascismo, dai. Se le piace questo termine, a me piace. Ha una caratterizzazione storica, ma diciamo un nuovo fascismo, se vuole usare un nuovo termine, fascismo, cioè un duce, cioè uno che comanda. Beh, bisogna vedere cosa fa, non basta comandare, che uno può comandare e fare fesserie, dipende. E anche fottere, come si è visto. È una cosa un pochino più complessa. Senta, barone, ma sì. I Rom, lei che cosa farebbe con i signori Rom? Gli zingari? Secondo me intanto Buonanno è stato molto bravo, perché ha avuto il coraggio di esprimere quello che pensano, cioè, non perfettamente ha ragione, ma la stragrande maggioranza degli italiani, anche gli italiani di sinistra che vivono nelle periferie, io penso alla mia città Milano, che sono invasi i quartieri dei milanesi dal degrado e dai furti negli appartamenti, dei zingari. Quindi anche loro la pensano come Gianluca Buonanno, dunque feccia della società, lei come... sono nel loro complesso un popolo di parassiti che vive di espedienti di criminalità. Di criminalità, benissimo. Confermo, lei che cosa... confermo. E lei che cosa farebbe, Barone Nero, con, sì, questi, con questi signori? Cosa, come, come provvederebbe, diciamo? Beh, come risolverebbe la questione? Guarda, innanzitutto ce ne sono in Italia oltre 200.000. La metà sono stranieri. Sì. Quindi i signori zingari non italiani... Li si accompagna fuori dalle frontiere italiane. E dove? Dove li si porta? A casa loro. Oppure? Oppure? I 100.000 che non sono... Vabbè, ho capito. Ma lei che cosa, come risolverebbe la questione degli zingari in generale? Cioè, li deporterebbe da qualche parte? Li porterebbe in una landa deserta? Ha ragione Salvini. Se sono nomadi, scusa, girino. Non possono essere stanziali in campi dove vive, vivono nell'illegalità. Dunque, se non vogliono trovare... Ma come risolverebbe la questione? Dove li porterebbe? Dove li porterebbe? Quelli... In Antartide o nel deserto del Sahara, o li mandiamo in Siria e in Iraq, nelle zone controllate dall'ISIS? Secondo me magari metterebbero... Si organizzerebbero differentemente. Però scusi, ma questo è come Hitler, che voleva è come Barone. Hitler che voleva portare gli ebrei in Madagascar. Dov'è che li voleva portare? Parenzo, dov'è che tu che sai le cose? Sì, sì, no, operazione Madagascar. È la stessa cosa, o sbaglio? Barone. Beh, ma sai che peraltro nell'operazione Madagascar c'erano diverse associazioni ebraiche tedesche che la sostenevano. Cioè lei è a favore del fatto che Hitler voleva portare gli ebrei in Madagascar? No, c'è, cioè, del riferimento storico. Beh, ma non mi pare contrario, però. No, non mi pare contrario. Ebraiche tedesche. Ma sì, ma erano tutti. Che sostenevano l'operazione Madagascar. Beh, lei... sono fatti storici. Ma lei non è così contrario, mi sembra, l'ipotesi di portare gli zingari in un posto isolato. Appunto. Allora, o si integrano e rispettano la legge, oppure... come fanno tutti i cittadini italiani, o fuori di Baal. Quindi troviamogli una soluzione. Portiamoli in Antartide, lei dice, oppure dove? Polo Nord, Polo Sud, o zone desertiche dove si spostano con le loro belle Mercedes e trovano lì, c'è un po' di sabbia, un po' di neve, però insomma. Ho capito. Parenzo, parla col Barone. Il paradosso è che devono rispettare le leggi come tutti. Vabbè, ho capito, Barone, aspetti, senti, senta Parenzo. Mandare i figli a scuola. Vabbè, abbiamo capito. Barone, volevo chiederle una cosa in finale, Barone Jonghi Lavarini. Barone Nero. Lei galleggia? Lei galleggia, ha detto, lei galleggia. Chiedo. Ma è divertente lei, Parenzo. Lei non dice cose intelligenti, sono battute. No, ma è capace solamente. Ma è anche pagato per dire queste battute di terzo ordine. Lei galleggia o no? Non rispondo a Parenzo, possiamo proseguire? Ma perché? No, perché? Ma lei è uno stronzo che galleggia, certo. No, che battuta originalissima, Parenzo. Quanto ti pagano questa battuta da imbecille? Questa banalità, quanto te la pagano, Parenzo? Barone Nero che galleggia, uguale stronzo. Va bene, arrivederci. Battuta, ciao. Molto originale. Ciao Barone, ciao Barone. Arrivederci, ciao a tutti. Ciao Barone. Spettacolare, spettacolare. La patonza deve girare. E la patonza deve girare. Tarantini e Berlusconi, siamo in sei, anche la cantante del Vaticano. Stasera siamo in sei, compreso me, sono io e cinque ragazze. Benissimo. Io lo so, non allargherei molto. No. Una, due, tre ragazzi da parte mia, sì. A vedere, e poi facciamo venire invece i cantanti, che sono tutti bravi, sì. E due, le cantanti cubane, la Cala Gemma, un'altra cantante, non lo so, cosa dici, che se chiamiamo anche Rossella, che c'ha una ragazza che canta in Vaticano, molto brava, sì, simpatica, sì, e magari invitiamo anche Fabrizio Del Noce, il direttore della Fiction e della Rete 1. E poi un'altra sera dice Berlusconi di essere messo malissimo, deve incontrare il Papa, Sarkozy, Merkel e Brown, Gordon Brown. Io sono messo un po' male adesso, ti devo dire la verità, perché mi stanno caricando di un mare di impegni. E questa settimana è terribile, perché poi tra l'altro sabato mattina ricevo il Papa al Quirinale insieme al Capo dello Stato, sabato pomeriggio sono io a Parigi con Sarkozy, la Merkel e con Don Bravo, domenica sera parlo a Milano alla festa di quelli di Alleanza Nazionale. Mi sono messo malissimo. Le cose migliori sono quelle che abbiamo sentito ieri. Non ci sono cose molto pruriginose in queste intercettazioni, diciamo la verità. Cioè, le cose più fighe sono quelle di ieri, cioè le altre fanno schifo, c'hanno la Bindi, io ne ho candidate solo 3 su 70, nessuna velina, le mie parlamentari sono le migliori, Camilla la brasiliana, la italo marocchina. Beh, però anche queste sono forti, dai, la... lui che si... che, non, che si fa due palle così con gli impegni istituzionali. No, non ha detto che si fa due palle, ha detto... No, però sta noia, giustamente dice che non sta a fare tutte queste cose, Merkel, Sarkozy, ma basta. Due bambine, beh, due bambine, una giornalista e una ventunenne. Riascoltiamo questa, che è sempre significativa comunque, perché certo. Poi siamo di fronte a un signore che gli piace essere circondato da belle fighe, diciamo la verità, poi che se fa qualcosa, se non fa qualcosa, chi no, se ne frega. Questo di per sé non è un... Sì, reato, gli piace essere circondato da molte belle fighe, giovani, giovani, piacenti. Circondato da Yonghi Lavarini. No, Yonghi Lavarini, no. Poi il problema è che in quel momento era presidente del Consiglio, cioè quello è il punto fondamentale, politico, però i processi, quello ha pagato, non ha pagato. Ma alla fine forse su questo c'ha ragione Sgarbone, lo sai, no? Su questo ha ragione Sgarbone, che ieri da noi ha detto, per esempio, che i magistrati che hanno fatto queste intercettazioni sono gentaglia da mandare in galera, così, molto semplice, secco. Vabbè, ma è il processo pagato da noi, siamo noi che paghiamo le tasse per questa gentaglia che continua a inondare i giornali di schifezze. È ora di finirla. Mattarella glielo dica, li mandi in galera a CSM, devo dire, questa gente che continua a diffondere merda inutile, spende soldi miei. Magistratura criminale, magistratura, dice Sgarbi, quelli che fanno le intercettazioni. Sono delle intercettazioni abusive di una magistratura criminale che usa i soldi nostri per occuparsi dei cazzi degli altri. Occorrerebbe arrestare quello che le ha fatte pubblicare. Ecco, qui il tono è cambiato, era un tono più leggero, ma incredibilmente più feroce. Ancora, pezzi di merda, veramente ne hanno detti tutti coloro contro i magistrati di Bari, cioè... Non voglio pagare le tasse perché dei pezzi di merda intercettino gente che non ha fatto nient'altro che i cazzi suoi. Si chiamano cazzi suoi. Chiaro? Come c'entrano queste puttanate con i soldi miei? Ma si intercettino il buco del culo. Si intercettino il buco del culo questi incapaci di Bari che non sanno che cazzo fare. Cioè fare pettegolezzi. Hanno rotto i coglioni. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Effetto BCE sullo spread che cala sotto quota 90, non succedeva dal 2010, Atene presenta le riforme, ma il negoziato con la UE è ancora in alto mare. Ultimatum di Salvini, chi non sta con Zaia è fuori, Tosi potrei candidarmi, il segretario della Lega vede Berlusconi sulle alleanze, niente alchimie. E per l'ex cavaliere oggi era l'ultimo giorno ai servizi sociali a Cesano Boscone, esperienza toccante, dice, con la giustizia non si finisce mai. La guerra dei libri dalla RCS primosia, l'accensione di Mondadori, l'offerta dovrà arrivare entro maggio, i mercati apprezzano, preoccupati gli scrittori. Il Frontex lancia l'allarme immigrazione, centinaia di migliaia pronti a partire dalla Libia, collaboriamo, risponde Gentiloni, ma senza allarmismi. Le statistiche riconoscono alle donne migliore formazione e cultura rispetto agli uomini, ma il mondo del lavoro le discrimina con salari inferiori. Maltempo, migliaia di persone senza luce in Abruzzo dove si incendia un gasdotto a seguito di una frana, disagi in tutto il centro-sud, milioni di danni in Toscana e Marche. You're taking Allora, voglio raccontarvi una cosa che riguarda Fiorella Mannoia. La signora Fiorella Mannoia, mai conosciuta in vita mia, non ci ho mai parlato in vita mia e non me ne frega niente di parlarci, devo dire la verità. Ok, non me ne frega niente di parlarci. Potrò dire che non me ne frega niente di parlare con Fiorella Mannoia? Mi basta quello che ascolto quando parla, purtroppo. No, pure. Che c'entra? Le canzoni sono meravigliose, le ho sempre sentite e mi piacciono tantissimo. Quando parla di altre cose non mi è totalmente indifferente, però questa è una mia opinione, ma dunque non c'entra assolutamente nulla. Che cosa è successo? Che un nostro redattore, una persona che lavora in questa trasmissione, si chiama Riccardo Poli, ha chiamato la signora Mannoia per sapere il suo parere sulle frasi di Buonanno. È uscito qualcosa che è quello che abbiamo mandato poi, in estrema sintesi, cioè ha attaccato Formigli perché dice, e poi parliamo della De Filippi, no? Dei programmi come il grande mostro, la De Filippi, no? Come il peggio della televisione, era riferito a Formigli, dunque Formigli peggio della De Filippi da questo punto di vista. E poi ha detto che Buonanno è il nulla, che Buonanno non vuole nemmeno commentare, eccetera eccetera. Scrive la Mannoia il giorno dopo che noi abbiamo fatto la manipolazione. Mi chiama al telefono un giornalista di Radio 24, purtroppo non ricordo il nome di questo signore, glielo diciamo noi, si chiama Poli. Non ho fatto la maleducato, ho ascoltato che cosa volesse da me. Voleva sapere che cosa ne pensavo delle dichiarazioni di Buonanno sui Rom. Ho risposto che la colpa non è di Buonanno ma di chi lo invita. L'ho anche detto che si demonizza la De Filippi per le sue trasmissioni, invece sono i giornalisti che prestano le loro telecamere a gente come Buonanno a fare i veri danni. Come titolano questi scorretti? La Mannoia dice che Formiglia è peggio della De Filippi. Parlavo di giornalismo a casa dei ladri, che saremo noi. Allora, noi non abbiamo manipolato nulla. Chiunque si può fare un'idea di cosa pensa di quella trasmissione di Formigli, la Mannoia, ascoltando quello che ha detto la signora Mannoia quando l'abbiamo chiamata, ha detto esattamente questo, esattamente quello che abbiamo scritto e quello che poi è stato riportato. Dunque, lezioni di giornalismo dalla signora Mannoia. Ci puliamo dove sapete, con questo post che abbiamo stampato. Mi ci pulisco, avete capito, sì. Fiorella Mannoia, buongiorno, sono Riccardo Poli, chiamo da Radio 24, il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno, mi sente bene? Sì. Sì, salve, scusi, la sentivo un po' male. Ieri sera è successa una cosa molto sgradevole a Piazza Pulita, non so se lei ha avuto modo di vedere la trasmissione di Formigli. No, non l'ho vista. C'era l'onorevole Buonanno, che ha affermato che i zingari sono la feccia della società di fronte a una delle rappresentanti dei Rom e dei Sinti in Italia. Mi domando perché Formigli lo invita, però. Cioè, noi parliamo sempre di questi personaggi, ma non parliamo mai di chi li invita. È perché fa audience, probabilmente, Fiorella. Appunto, per cui basta, di cosa stiamo parlando? Non parliamo di niente, poi dicono che il nemico numero pubblico è Maria De Filippi, dai, non scherziamo. Ma quindi è il nulla per lei Buonanno? Per me Buonanno è il nulla, non merita, secondo me non merita nemmeno di risposta. Ecco, il punto è questo però, che si è aperto un piccolo dibattito sul fatto che questa persona sieda su un seggio da europarlamentare. Cioè, alcuni hanno chiesto anche che sia allontanato in qualche modo da questa... Ma qui non se ne va nessuno, forse non ha capito. E allora basta, questo purtroppo siamo l'Italia, anche questo. Candidiamo gente anche impresentabile, dice. Sì, assolutamente sì. Se purtroppo qualcuno li vota, però. Secondo lei io posso perdere tempo a rispondere a Buonanno? Dai, non lo posso fare, su. Ognuno ha una dignità propria, io ho la mia, non posso perdere tempo a parlare delle stronzate che dice Buonanno. Arrivederci. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Comportatevi bene. Oh, a proposito di Capannone, cosa ha detto Capanna oggi? No, cosa ha detto oggi Capanna su Radio 2? Radio 2, un giorno da pecora. Cosa ha detto il signor Capanna? No, un momento. bisogna ripristinare le cose come stanno. Ma che c'entra? Gente come te non sarebbe arrivata ai 50 anni negli anni 60. Non sarebbe arrivata. Ma come non sarebbe arrivata ai 50 anni? Che vuol dire? Entravi all'università, alla statale di Milano, c'erano degli striscioni che mettavamo in tutte le aule occupate, e quando i conigli come te stavano fuori e volevano entrare, che succede? Venivano massacrati. Ho capito, Capanna, però non è bello. Scappavate, cioè... come conigli. Vabbè. Come conigli scappavate. Il diritto allo studio me ne fotto. Vabbè. Il sotto politico per tutti. Vabbè, d'accordo, d'accordo. Adesso mi vuole fare ascoltare alla gente le sue frasi di oggi su di me e su Giletti. Abbiamo un minuto e 44 secondi. No, ma io quello... Per andarti a fare il culo. Un minuto e 44 secondi. Sentiamo. Mi è stata posta una domanda, per esempio, se tu avessi una pistola puntata alla tempia, dovessi scegliere tra Giletti e Cruciani, quello della Zanzara, vi rendete conto? Ho dovuto scegliere Cruciani. Le mie battaglie a favore degli umili, a favore della giustizia, della libertà, e quando trovo dei cretini sulla mia strada è di solito li faccio Ci dissociamo, chi sono i cretini? Faccia lei dei nomi. Ne ho appena fatti, per cui non potete dire a me questo. Siamo dei cretini, Cruciani e Giletti, dei cretini. Vabbè, Franco da Bergamo, dai Franco. Franco, su, forza, dai. Sì, salve Cruciani. Dimmi. Volevo riferire un fatto accaduto qualche mese fa su un intercity tra Treviglio, in provincia di Bergamo, e Venezia. Sì. Allora, abbiamo preso il treno in prima classe, io e mia moglie. A un certo punto a Mestre sono saliti una trentina di extracomunitari, quasi tutti di colore, che hanno praticamente occupato tutti la carrozza. Io e mia moglie ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: dubito che questi abbiano dei biglietti. Infatti all'arrivo del controllore questi sono rimasti tranquillissimi al loro posto. Il controllore, fra l'altro, già di una certa età, attorno ai 60 anni, ha chiesto i biglietti e praticamente diciamo che hanno minacciato il controllore, il capotreno. Vabbè, ma è questo che vuol dire secondo lei? Perché ce lo racconta? Allora sono intervenuto perché riguardo all'intervento di Lella Costa, dove che ha detto che spesso in metropolitana o negli autobus sono gli extracomunitari ad alzarsi per far posto a chi ha bisogno di sedersi. Bravissimo. Vabbè, quella è una stronzata, ma questa sua esperienza non è che in tutti i treni d'Italia entrano frotte di extracomunitari che non pagano il biglietto. Chi non paga il biglietto su un treno e minaccia pure il controllore è un deficiente e anche un criminale, e va, come dire, messo in una situazione di sicurezza. Renato, Milano, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Volevo esprimere la mia opinione, perché come Lella Costa, quando io ho circa 80 anni, 79 anni, io e mia moglie saliamo in metropolitana, nel 70% dei casi chi cede il posto sono degli extracomunitari, mentre le ragazze e i ragazzi giovani della nostra età, col telefonino in mano, fingono di non vederci nemmeno. Cioè lei sta dicendo che quelli che lasciano il posto sono gli extracomunitari, mentre i ragazzi col telefonino in mano eccetera se ne fottono. Nella maggioranza è così. Fermiamo. Adesso io voglio dire sotto. La moglie starà parlando sotto, penso. È a fianco, è mia moglie a fianco. Lei ci sta dicendo che ha ragione la signora Lella Costa quando dice che in autobus, in metropolitana eccetera eccetera, quelli che lasciano il posto sono gli extracomunitari. Non solo, se vuole. No, per carità, ma io rispetto la sua esperienza, però sono sicuro che se si fa una statistica non è così. Cioè, sono 100 al 100%. Dopodiché, volevo aggiungere un particolare, se mi dà ancora. Dimmi, Renato, dimmi. Allora, ho attaccato bottone, diciamo, con una di queste persone che si sono alzate. Adesso che erano dei somali. E io gli ho detto, sa che mi capita che molto spesso siate voi extracomunitari a cedere il posto piuttosto che gli italiani? E lui mi ha risposto, questa è una nostra educazione. In famiglia dove io vivo ci hanno insegnato così. E quindi io adesso in Italia mi comporto così. Ma va bene, ma quelle sono delle persone educate, sono delle persone che le hanno ceduto il posto, ma io non credo che la sua esperienza, lo dico con tutto rispetto Parenzo, non credo che la sua esperienza faccia statistica, cioè non si può. non credo che la sua esperienza faccia statistica, punto. Dopodiché va benissimo, cioè non... Lei non ha mai osservato che i ragazzi non alzano gli occhi dal telefono? Ma non lo so, può darsi che sia così, ma che io credo che sia una questione di età. Cioè, lo farebbero anche i ragazzi di colore, extracomunitari, quello che è, cioè di non lasciare il posto. Non è una questione di educazione, non è una questione di pelle, di colore, eccetera. Può essere. Vabbè, Renato, grazie, grazie. Marco, grazie a voi, Marco Torino, vai Marco. Sì, Cruciani, buonasera. Parenzo, buonasera. Dimmi, io volevo solamente dire per il discorso del barone nero. Sì. In realtà lui è un po' colorito, però effettivamente rispecchia quello che è, secondo me, il senso comune sugli zingari. Cioè, su che cosa, scusi, su Mussolini o sugli zingari? Sugli zingari. Nel fatto di dire che, secondo me, se facciamo una statistica, visto che lei prima ha parlato di statistica... Secondo lei, se uno fa una statistica, alla fine scopre che sono tutti d'accordo con Bonanno. Cioè, quando dice feccia della società, ha ragione lui. Io sono convinto di sì. No, ma anch'io sono convinto di sì. Anch'io sono convinto. Dopodiché, cioè, io ho parlato con un sacco di gente. Che è odioso. No, Davide, io ho parlato con un sacco. Però ti vorrei far osservare questo. Ho parlato in questi giorni con un sacco di gente di sinistra, per tradurlo. Ma cosa c'entra? I quali hanno detto che effettivamente. Ma il razzista non è solo di destra. Ma non è una frase razzista quella roba là. Non è una frase razzista. È un pensiero. Vabbè, d'accordo, è una frase razzista. Va bene. Beh, Marco, allora non ho capito. Marco, ma cos'è il razzismo? Io non lo so. Non è quello, non è razzista, dai. Marco, no, dimmi. Nel momento in cui c'è un popolo che vive di accattonaggio e di furto. Ecco, vedi un popolo, ecco. Cioè, io è per questo che vi farei conoscere veramente Bistecca. No, dai, ma chi sono questi qua, Bistecca e quest'altro? Chi sono? Li conoscerai due picchiatori, chi sono? No, tutt'altro, per mettervi in linea, Bistecca e Plinio. Cioè, chi avete sono Bistecca e Plinio? Popolo. Il popolo dice, ma cosa un popolo di borseggiatori? Ma è questo che mi manda? No, ma non è questo, mi scusi Parenzo, ha frainteso le mie parole. Ha frainteso degli zingari. No, no, vabbè, ha frainteso, nel senso che il popolo degli zingari è un popolo, perché loro stessi si considerano un popolo. Quindi a quel punto lì, lo zingaro, se ne parla con qualsiasi italiano, non è dei borseggiatori, ma sicuramente nessuno che gli dirà che lo zingaro gli è simpatico o che gli piacerebbe vivere a fianco a un campo nomadi, indipendentemente che uno vive in una grande città oppure in un piccolo paese. Sono convinto se faceste un forum sulla radio, uno mette. No, ma guardi, basta ricevere e ascoltare i messaggi che arrivano. Cioè, gran parte degli italiani pensa che i Rom sono la feccia della società, ma non per bruciarli, non perché sono Rom, perché li considera tali. Quando vedi uno, ti allontani e ti allontani dalla feccia. Non è una frase orribile, come ha detto Battista, è quello che uno vive ogni giorno, ma lo vivi anche tu ogni giorno. Ma mettigli una stella. Mettigli una stella c'entra, dai, su, viola, Maurizio da Milano. Dai, non c'entra. Metteva le stelle viola, mica solo sì, gialle. Sì, Hitler, e zingari, sì, lo so. Maurizio, Milano. Certo. Maurizio che non c'entra nulla. Maurizio da Milano, vai Maurizio. Allora, il signor Sacchio io personalmente non lo condanno, ma dal mio punto di vista è stato sia un idiota e sia un bugiardo. Io ho letto il referto dell'autopsia e parlo calma, stiamo calmi. Lei siamo passati a Stacchio, che è il benzinaio che ha sparato a quel Rom durante una rapina. Peraltro ha detto non sparate il mio nome. Non solo ha detto non sparate il mio nome, a oggi in un'intervista ha detto anche che qualcuno lo voleva candidare, che il Far West non gli piace, che sparare come hanno fatto a Oderzo non va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, vai Maurizio, dimmi. L'intervista l'ho letta anch'io e non dice esattamente così, però non è questo il punto. Allora, il referto dell'autopsia parla chiaro. Il proiettile ha asportato gran parte dei tessuti della coscia. Il Rom, anche se fosse stato per assurdo salvato e soccorso in tempo, sarebbe rimasto gravemente menomato a vita. Chi imbraccia un'arma come quella che ha imbracciato Stacchio la imbraccia per uccidere e non per ferire, e questo bisogna chiarire. Ma quello è chiaro, ma è chiaro che voleva sparare per difendersi da gente che gli sparava. Adesso poi sarà la magistratura, la polizia ad accertare tutto. Io non ho capito perché tu dici che è bugiardo. È un bugiardo perché lui continua a rilasciare dichiarazioni dicendo che l'ha fatto per salvare la Jenny. La Jenny è la... Ma scusa, allora l'avrebbe fatto per che cosa? Per ammazzare direttamente, secondo te? Non ho capito. Io penso che lui vede molti film. Nei film vede che i personaggi, gli eroi, quando sparano, copulano con la ragazza che salvano. Lui nel suo sogno proibito era innamorato della Jenny, ha detto tiro fuori il fucilone, lo faccio vedere alla Jenny, così quella si innamora di me. No, ma tu sei malato di mente. Ma tu sei malato di mente. coraggio di ammetterlo, ma la realtà è questa. Ma scusa, ma tu come fai, ma come fai a dire una cazzata simile? Cioè lui, allora capisci Parenzo dove si arriva? Cioè questo tizio Maurizio da Milano, che è chiaramente disturbato, dice che siccome era segretamente innamorato dell'impiegata lì della gioielleria, sì, Jenny, va bene, giusto Maurizio? Esatto, giustissimo. Ma giusto, no, cazzo. Ma siamo d'accordo che il livello di follia e di alcol ormai è elevato, ma io non voglio neanche, cioè, come fai a dire una cosa del genere? Spiegami come fai? Io conosco benissimo l'animo umano e so come ragionano gli uomini. Cioè, siccome era innamorato di quella, ha sparato per ammazzare quello che voleva fare la rapina là. Voleva fare l'eroe salvatore, così quella si innamora di me. La realtà è questa. Non lo confesserà mai, ma io capisco. Ma scusa, ma che fai l'investigatore tu? Cioè, fai lo psicologo della mente delle persone? Che fai? Normalissima, però so come ragionano gli uomini e so che come lo dovrebbe sapere pure lei. Quello qui era un personaggio di mezza età, continuava sempre a nominare Stagiani. Io non l'ho neanche vista, non so neanche se sia bella o se sia brutta, ma io penso che voleva farsi notare, non sapeva come fare diversamente e ha preso il fucile in mano, così ha colto la palla al balzo. Le teorie di Maurizio da Milano. Vabbè, ciao. La patonza deve girare. Oh, sapete che c'è casino nella Lega in Veneto, Parenzo? Ancora non è chiaro quello che farà Tosi. Può darsi che fino all'ultimo ci ripensi e resti nella Lega. Può darsi che si candidi in autonomia a presidente del Veneto, eccetera, eccetera. Ora, capisco che la materia non appassiona, però vediamo se riusciamo a pizzicare per telefono uno dei protagonisti di questa vicenda, cioè dire un Veneto doc, un leghista doc del Veneto, che tra l'altro è il presidente del Consiglio Comunale della tua città, Roberto Marcato, signor Marcato, Roberto Marcato. Una brava persona nonostante Bitonci, insomma. È un fedelissimo di Bitonci, vediamo che ne pensa, e lui è molto a favore di Salvini, bisogna premetterlo, molto a favore di Salvini. Proviamo un po'. Sì? Roberto, ti voglio chiedere una cosa, ma sto Tosi che è impazzito secondo te? Ma guarda, non lo so, certo che diciamo che sta facendo qualcosa di irrazionale. Ecco, ma cosa è successo nella sua testa? Cioè, ma io lo dico da qualche mese, io sono convinto che lui in realtà avesse come obiettivo quello di candidarsi al posto di Luca Attacchi. Ma no, ma non si può, ma non ci si può candidare contro al posto di uno uscente, dai, è una cosa. Lo so, ma infatti lo so anch'io, secondo che non sta nessuno in terra, ma io sono convinto. Ok, ma secondo te è impazzito, allora? È impazzito secondo te? C'è qualcosa che è scattato? È ambizione personale, che io per carità è legittima, probabilmente lui contava che ci fosse più morbidezza nei suoi confronti e ma è una questione di posti, dai, è una questione di posti. Cioè, alla fine ha pensato che i suoi uomini non sarebbero stati abbastanza garantiti in Veneto. Questa è la sostanza, dai, o no? Ma io resto ancora della convinzione che lui volesse candidarsi lui al posto di Luca Zaia. Ma tu sei con Salvini, ovviamente. Mamma mia, ma ci mancherebbe. Ma sono con Salvini, sono con Zaia, ma come la stragrande maggioranza dei militanti veneti è con Luca Zaia. Ma quanto vale Tosi? Se si candida da solo, quanto prende? Quanto vale? Da solo con il faro? Da solo, Tosi, candidato so. Come Tosi, quanto può prendere? Lo danno l'1,5-2%. Più del 2% non prende, secondo te? No, assolutamente. Cioè, ma fuori c'è anche Passera, però, Passera, ragazzi. Passera, l'SVG lo dà lo 0,8%. Scusi, Parenzo, io te e mia zia forse facciamo di più, Ma sì, no, dai, la zia di Marcato è molto simpatica, però. No, ma dai, ma questo no, è vero. Però dai, voglio capire, è un traditore della Lega sto Tosi o no? Alla fine? No, è uno che sta mettendo a repentaglio il partito e il Veneto. E il Veneto, questa è una responsabilità grave, secondo me. Cioè, con questo casino, comunque vada a finire, ha provocato. Non si capisce perché. Un danno l'ha provocato. Vabbè, un danno l'ha provocato, sicuramente. Anche perché lui ha infranto una delle leggi storiche della Lega, cioè quello di portare i cavoli nostri sui giornali. Questo è un tabù che lui ha infranto. Ecco, ma perché io sono ancora convinto, tu dici solamente per ambizione personale voleva candidarsi, ma non c'è solo questo, però ci deve essere qualche cos'altro che gli è passato per il cervello, dai, ma su. Guarda, secondo me questa è una. Ma perché va a parlare con Alfano, con Passera, gente che è lontana mille miglia dalla Lega? Ma lui ha già parlato con loro nel momento in cui lui ha costruito il Faro. Che è un'organizzazione politica alternativa. Cioè, ma secondo te è giusto espellerlo? Cioè, se non si dimette smette da sta fondazione, se non scioglie sta fondazione, è giusto cacciarlo o no? Certo che sì, ma per una questione di equità nei confronti di chi è stato cacciato da lui per gli stessi motivi. Cioè lui ha cacciato persone perché... perché lui ha cacciato in una mattina 34 militanti, 34, perché? Un sabato mattina tragico, perché qualcuno ha detto lui che questi avrebbero fischiato sul prato di Pontida quando lui ha parlato. E lui li ha cacciati. Espulsi. Dunque lui va espulso, tu dici lui va espulso se non molla tutte le altre cose. Assolutamente sì. Se lui non si toglie dal faro e non lo chiude, lui va espulso assolutamente. Va espulso. Ma la cosa che voglio capire è, alla fine ha favorito la sinistra, ha favorito la Moretti? No, allora, diciamo che per fortuna lui non è più il Flavio Tosi di qualche tempo fa. Cioè? Ma nel senso che anche la forza di traino che aveva all'interno del partito non è più quel cavallo di razza, questo assolutamente no. E lo si è visto anche nei vari Facebook, nei vari social network. Non è più il Tosi di prima, non porta più i voti di prima. No, assolutamente no. Però insomma, comunque un disagio l'ha provocato. Ma ha qualcosa ancora a che fare con la Lega, Tosi? Cioè uno o è ormai democristiano? Cioè. Secondo me è molto bello. Lui si è definito democristiano. Cioè, diciamo che la Lega è nata in antitesi alla Democrazia Cristiana. Cioè ormai ha molto poco in comune con la Lega. Ma io direi quasi nulla. Quasi nulla, cioè ormai quasi nulla. Vabbè, sì. Ma la questione dei Rom, Buran ha detto che sono la feccia della società, ha ragione o no? Assolutamente no. Ha torto, buon anno. Ma dai, no, scherziamo, dai, no, adesso perché io quando sul fatto che ci siano delle enclave dove il diritto non esiste, dove i bambini sono trattati peggio degli animali, perché che ci debba essere una regolamentazione, per carità di Dio. Però? Ma questo a dire che i Rom sono la feccia del... No, ma non esiste. Cioè è una cosa razzista? Sì, profondamente razzista. Profondamente razzista. E che fate con sto buon anno allora? Lui, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Vabbè, ciao Robè, grazie. Ciao, grazie a voi. E abbiamo scoperto che non tutti i leghisti la pensano come buon anno. Roberto Milano, Roberto, vai. Sì, Roberto, buonasera a tutti. Dimmi. Mi sentite bene? Sì, okay. Sì, dimmi. Ma per me la signora Mannoia ha perfettamente ragione. In che senso? Avete fatto sentire prima che ha paragonato Formiglie peggio della Filippi. Della De Filippi. Ha detto che in quell'occasione poi parlano tanto della De Filippi come il nemico numero uno da battere, invece Formigli invita buon anno in trasmissione. Sì, cioè determinati personaggi, che sia Razzi piuttosto che... non vanno invitati. L'oblio assoluto. Ha parlato il democratico Roberto da Milano. Ascolta, nel momento in cui tu fai parlare un personaggio che non dice nulla e quando apre bocca dice delle cose sbagliate. Vabbè, questo lo dici tu, ma chi lo decide? Roberto da Milano, il Papa, chi lo decide? Ascolta, è inutile che fai il pagliaccio dicendo... Non sto facendo il pagliaccio, sto dicendo chi decide se quello dice delle cose giuste o sbagliate, lo decidi tu, la Mannoia, chi lo decide? Mi sembra logico, secondo chi? Ma non fare il pagliaccio, chi è che decide se è sbagliato? Ma queste cose qua, questo modo di fare, lo utilizza mio figlio che ha 13 anni. Ma chi? Quale modo di fare? Quello che stai usando tu adesso, Roberto, con me. Tu stai dicendo una cosa molto semplice, che siccome buon anno dice stronzate, non deve essere fatto parlare, giusto? Non bisogna che parli, esatto, giusto? Benissimo. Esatto. Chi lo decide che dice stronzate? Chi lo decide che dice stronzate? Beh, penso che sia abbastanza palese. Sì, è palese. Secondo chi? Che c'è un tribunale? C'è un tribunale? Ad esempio che Razzi dica che la Corea del Nord è il posto, è la Svizzera e quant'altro. Ritieni che visto che tu invece... Ma perché non lo può dire? Non ho capito. Tipi da Zanzara. Zanzara. Provincia di Padova, Luciana. Sono qua. Vai Luciana, dimmi. Volevo parlare in merito a ieri sera dei furti io. Dimmi, dimmi cara. È armata, dimmi. Cara? È armata. Hai il fucile tu? La pistola. Ho detto che sono stata già derubata una volta. E allora? E mi hanno portato via tutto. Sì, ma dove? Dove poi sei? Sono stata derubata la seconda volta e mi hanno portato via tutto, anche i lampadari e le applique. E adesso la terza volta, se vengono in campagna qui da me, io sparo, ok? Con che spari, scusa Luciana? Sparo con la pistola. E dove ce l'hai la pistola? A casa. Ma c'hai porto d'armi? Certo. E perché cosa c'hai il porto d'armi, signora Luciana? Non è che tutti hanno il porto d'armi, tu perché hai il porto d'armi? Perché sono una cacciatrice. Sei una cacciatrice. Esatto. E che cos'hai? Un fucile, una pistola? Che c'hai? No, una specie di fucile a canna mozza. Ma amica mia, il fucile a canna mozza non è che puoi sparare alla gente per andare a caccia, non è per sparare no, ladri. No, se uno viene a casa mia e mi deruba per la terza volta, io sparo. Ascolta, ma è vero che sei un finocchio, parente? Lo sanno tutti, dicono tutti che sei un finocchio, ho capito, nonnina. Senta, nonnina cara. Volevo... Quanto mi ha, gentile signora? Hai trovato pane per i tuoi denti, vero, caro? Non so sì. Se ce li ha ancora suoi i denti, la nonnina, ma, sì? Sì, no, li ho tutti pagati, tesoro. Ah, la dentina nuova. Quanti anni ha nonnina? Aspetta un attimo, quanti anni ha la nonnina? Quanti anni ho nonnina caro, quanti anni ho? Che te ne frega, cioè passami Cruciani. La nonnina Leghi, no adesso qui comando io, la nonnina Leghi è un soviet supremo adesso, basta, colpo di stato comunista. Ma passami Cruciani che colpo tu sei ritardato. Colpo di stato comunista, basta nonnina, finito. Finito tutto. No però nonnina. Scusa, la Padania, finito tutto. Ma sta rispondendo a tono. Vai a dire messa. No, ma perché? Ma non è un insulto dire. Però è ebreo, Parenzo non dice messa, è ebreo, non va a messa. Dice messa ebreo, va bene, anche ebreo. Ascolta qua, allora parlavamo di ladri, no? Dimmi Luciana, parlavamo di ladri, dimmi. Se vieni a casa mia ti sparo in bocca a te. C'è. Tutti pronti a sparare, tutti siamo pronti. Tutti così, tutti pronti, tutti hai capito? Tutti col dito sul grilletto, ma non il grilletto quello che pensi tu. Hai capito? Quello che pensa Berlusconi, quello che penso io, un ferro. Passami. Se mio marito è solo in macchina con lui, Alberto. Alberto. A bordo del tank. Alberto. Pronto? Alberto, sì, armato, ha detto tua moglie che dormi con due mazze da golf. Dormo con due mazze da golf e esco di casa con un bastone animato. Ma perché? Come? Ma che gente? Ma perché? Scusa, non ho capito, hai così paura? C'è no, io non ho paura di niente, figurati. E allora? È perché c'è tanta gente in giro che rompe le palle, capito? Sì, sì. E allora se trovo uno che rompe le palle più del normale, allora mi difendo. Ma che servono i bastoni grossi? I bastoni, se per caso uno viene in camera mia mentre sto dormendo e mi sveglio, anziché prendere una pallina da golf, spero di prendere la testa di quello che entra dentro, hai capito? Con un bastone da golf. Boom, una botta in testa così. Tipi da Zanzara. Beh, la coppia Luciana e Alberto da Padova. Che bella gente che c'è, che bella gente. Mamma mia, che ambientino. Beh, stupendo. La nonnina col marito nel tank mentre appoggiava la dentiera della ma sono personaggi meravigliosi, sarebbero da frequentare, da conoscere, da frequentare, assolutamente, assolutamente. Preferisco quando frequenti la Nappi, guarda. Ma Giovanni da Novara, vai Giovanni. Ah, perché tu preferisci frequentare la nonnina rispetto alla Nappi? Ma no, adesso mi poni davanti a una scelta che non ha senso, però. No, perché scusami. Ma non lo so, no, ma meglio la Nappi. No, meglio la Nappi. Uno ti dice una serata con la Nappi. Sì, no. Con la nonnina che spara. No, meglio la Nappi, non c'è dubbio. Ah, ecco, no. Giovanni, Novara, vai. Su questo siamo buonasera. Dimmi, buonasera. Dimmi. A proposito dell'affermazione di buon anno che gli zingari sono una feccia. Sì. Il buon anno potrebbe guardare vicino al suo partito, dove ha un consigliere regionale che è inquisito per... essendo all'estero, questo mai è provato, sua moglie a suo nome soggiornava in un albergo di lusso a Venezia. Ma chi è questo qua? Scusa, chi è? È un suo terapiedi che si chiama Tiramani. tiramani. Beh, controlleremo, verificheremo, Verificate, verificate che vabbè, allora, allora? E allora quella è la feccia della società politica italiana. Cioè lei dice che è i politici, certi politici anche della Lega sono la feccia della società, non i rom. Per carità, sono i primi della feccia della società politica, perché predicano razzismo, fingono e non hanno in fondo, si è visto da parte da Bossi, il pesce puzza dalla testa. Ho capito Giovanni, grazie. Renato, provincia di Brescia, vai Renato, vai. Buonasera. Dimmi, bene? Vai, sì. No, sei col viva voce, dai, togli. Che cazzo, dai. Eccomi qua. Vai Renato, dimmi. Allora, volevo dire questo, io un po' che vi ascolto abbastanza spesso, e uno così che vi ascolta magari un po' in maniera superficiale dice Cruciani è il razzista. Sì. In realtà è esattamente l'opposto, perché il signor Parenzo, o dottor Parenzo che lei lì in parte, ho notato che quando trova qualcuno che non gli va, non è che critica l'idea, lo offende, dice che gente analfabeta fa dei commenti sul fatto che magari sbagliano la sintassi, quindi le persone, a meno che non siano letta comunitaria, al dottor Parenzo fanno schifo, quindi il razzista è lui, per quanto mi riguarda. Io me la prendo soltanto con i razzisti, con quelli dottor Parenzo, vada a riascoltarsi e lei vedrà che lei insulta le persone, ha dato dello sponso al barone nero prima, lei non insulta l'idea, il barone nero è la caricatura. Difetti, si vada a riascoltare, se noi parliamo in fila, io la invito ad andare a riascoltare. Allora, quando lei ha finito le rispondo, bravo, ecco, perché altrimenti le voci si sono bravissimo, ha ragione, ha chiuso io non la offendo perché io la rispetto come persona, lei invece le persone la che non io condividono non le sue idee. Ecco, lei può non rispettare l'idea della io a parte un momento, chiariamo subito in 1 minuto e 40 secondi. Io non rispetto i razzisti, quelli non li rispetto, esatto, sì. No, cioè, lei non rispetta le persone che non la pensano come lei, perché ho sentito delle persone non esprimere concetti razzisti, e lei faceva dell'ironia sul fatto che si esprimevano in un italiano. Vabbè, ho capito perfettamente. Accusa Renato è che Parenzo non contesta le idee, ma dice sei uno stronzo, offende diciamo quelli che non la pensano come io lui, questa è l'accusa. Lui dice aspetta, il barone nero non è che sia tutti gli ospiti, tutti i personaggi che intervengono qui. Ma anche altri, quelle persone che magari non mica tutti dobbiamo parlare italiano. Beh, non è che quelli intervengono, non è che la gente che interviene qui sia leggera con Parenzo, ogni tanto può capitare anche a lui di dire delle cose, di rispondere per le rime. Se lo insulta fa male. Ma di rispondere per le rime in alcuni fa male. Vabbè. Fa male. Che ciao Renato, ciao. Caro Parenzo, tentiamo un collegamento dalla Libia. Beh, seguiamo passo dopo passo la missione, la nuova missione italiana in Libia. Sai a chi mi sto riferendo? Sì. Voglio svelarti questo, sì. Sarei dovuto andare anch'io con Bonanno in Libia, seguendolo con la troupe di Matrix. Sì. Poi non te l'ho detto perché se no se fossi andato in Libia poi non mi sentivi col cellulare. Beh, sarebbe stato qualche difficoltà ci sarebbe stata. Esatto. Però c'era un problema anche legato all'assicurazione. Poi ti dico perché la pelle dei giornalisti o degli italiani che vanno lì vale 4.000 euro al giorno per le assicurazioni inglesi e americane. Quindi non so se Bonanno si è assicurato la sua forza. Questo è interessante, vedremo. Comunque cerchiamo di contattarlo. Adesso dovrebbe essere al confine tra. Gli ho mandato un messaggio qualche istante fa. Al confine tra Libia ed Egitto. Libia ed Egitto. Sì. Gianluca? Eccomi. Sei entrato in Libia? No, sono proprio sul confine. Sono fermo perché mi stanno facendo dei controlli, perché ho fatto una cosa da mandare in Italia, una fotografia dove ho portato la fascia da sindaco e una bandierina dell'Europa per fargli vedere il cagasotto del governo italiano, che c'è qualcuno che invece ci va davvero. E mentre facevo le fotografie col reporter mi hanno beccato e adesso sono qua bloccato. Ma chi ti ha beccato? I libici o gli egiziani? Non ho capito. No, gli egiziani. Ma che hai scoperto? Non ho capito che hai scoperto. Buon anno. Ma sono riuscito a conversare con una serie di persone, mi hanno detto la questione dei clandestini, cioè io una cosa che volevo capire la questione dei clandestini. Come arrivano, chi li paga, certo, eccetera. Come è? Più persone mi hanno detto la stessa cosa, cioè gente, come dire, che con il, quasi anche sorridendo, come dire, come non avete ancora capito. Cioè, in pratica ci dicono, mi hanno detto, che lo usano ormai come quasi un taxi, cioè fanno partire le baracche con dentro i clandestini e avvisano già l'Italia che sono partite, per cui le usano quasi come taxi. E soprattutto con Mare Nostrum facevano così, dicevano che chiamavano appena li facevano partire dicendo guardate che c'è il barcone che sta arrivando, e loro poi li caricavano veramente vicino alle acque territoriali libiche. È il business italiano è mantenere tutta questa gente che arriva. Senti? Non senti? E sparano. Aspetta, devo avvicinarmi a... Ma chi sta sparando? Al confine della Libia, c'è cioè dentro la... Ma che cazzo, è il confine con la Libia? Io non so chi è che spara. Senti, ma Zuckerberg che ha fatto ancora? Sei in guerra anche con Zuckerberg? Mi ha bloccato un'altra volta Facebook, mi dicono... Ma io mi chiedo, Facebook è pieno di robe pornografiche, di tutto e di più, e deve bloccare Buonanno. È meglio che tiri via le cose pornografiche che pensare a Buonanno che dice delle cose che pensano la stragrande maggioranza delle persone, no? Vabbè, poi vedremo come andrà a finire. Intanto l'ultima cosa, Fiorella Mannoia dice che sei il nulla e che dici solo stronzate, la signora Mannoia, la cantante. Ah, sì. La cantante Mannoia. La signora Mannoia credo che... adesso dice così, ma quando è venuta a Varallo, io ero sindaco a Varallo, adesso lo sono a Borgosesia, si è presa dei bei soldini e dei rom, perché non si prende qualche rom in casa, qualche zingaro, poi parli. E l'altro Gino Paoli, no? Tutti quei rotti in culo, tra virgolette, nel senso che parlano tanto, fanno tanta teoria, dicono le cose così, con la puzza sotto il naso, poi se possono portano i soldi in Svizzera. Magari c'è anche la Mannoia in Svizzera, chi ne sappiamo noi? A Varallo, io facevo già sindaco prima, lei è venuta a cantare, mica si è posta la domanda, cioè, non gli facevi... buon anno, chi non è buon anno. Non gli facevi schifo. Evidentemente il dio denaro è quello che conta per lei, per Gino Paoli, per tutti quei rotti in culo, tra virgolette, artisticamente dico, metaforicamente, che ovviamente fanno così, con la puzza sotto il naso, ma poi in realtà quello che conta per loro è il dio denaro. Va bene, ciao Gianluca, a presto, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Parenzo, tra uno sparo e l'altro, hai sentito gli spari, no? I miei... No, certo, tra uno... tra uno sparo e l'altro ha avuto il tempo buono di dare dei rotti in culo alla... Sì, esatto, questo volevo dire, cioè lì ci si sta lottando per la vita e lui porta la sua bandierina, cioè è una pagliacciata, adesso mi dispiace perché lì... Dice di aver scoperto delle cose importanti sui clandestini. Cosa hai detto? Dice di aver scoperto la tratta dei clandestini, come fanno, che chiamano... scusami un momento, è vero che sono a Parigi, ma cosa hai detto? Dice di aver... Scusami perché sono qui, forse la linea ha intanto si tratta. Scoperto di avere... Che di buon avere... anno ha scoperto qualcosa? Beh, dice di sì, dice che gli hanno detto delle persone che cosa succede, cioè partono in barcone e subito quelli avvertono l'Italia che stanno arrivando. E lui arriva, lui è convinto ancora con quella bandierina dell'Europa... No, dell'Italia e dell'Europa, sì, di arrivare lì... di sventolarla, lui è ancora convinto di questa cosa qui e pensa di essere al Parlamento Europeo, dove al massimo... c'è un uno. Poi la cosa bianco. Che mi ha stupito è che tra una cosa e l'altro e l'altra tra uno sparo. Hai sentito? Gli spari sono veri. Sì, ho sentito perfettamente. Hanno dato dei rotti in culo, alla Mannoia e a Gino Paoli. Vabbè, artisticamente parlando, poi, no? Artisticamente parlando, che vuol dire artisticamente parlando? Rotti in culo, che vuol dire? C'è una statua, vabbè. Monellacci. Allora andiamo a Bologna, Alam, signor Alam. Sì, buonasera. Dimmi. Cruciani. Vai, oh. Ma guarda, io sono molto incazzato, no? Sì, con chi? Sono molto con tutta la gente che... Con tutta la gente, che vuol dire con tutta, tutta la gente? Gente, fai parlare. Che ne so, con tutta la gente stai dicendo. Fai come quelli del Polo della Libertà. No, cioè, faccio come mi pare, faccio semplicemente no, come mi pare. Parlare, o mi fai parlare o metti giù. Vai tranquillo, vai tranquillo. Allora, io sono stanco, hai capito, di vivere in un paese incivile come l'Italia, perché io sono rom, hai capito, che vivo qua da 25 anni, ho lavorato, ho sempre pagato le tasse e vivo dai dentro una casa e pago l'affitto. Bene, ottimo. Se ti raccolte merdate, ti vuoi trasmettete pubblicamente, capito? Pubblicamente, perché questo è un paese incivile, perché da un'altra parte queste cose non si dicono in radio e non si dicono neanche in TV. Ma figuriamoci, capito? Ma figuriamoci. Sulla razza degli altri, come figuriamoci? Allora, come io devo dire, allora posso dire che gli italiani è tutta una razza di merda, siete la fetta dell'umanità. Lo puoi dire se lo pensi, se stai calmo, se no non si sente, stai calmo, se no non si sente. Ma cosa vuol dire questo? Questi si armano, sparano, questo è un odio razziale. Ma lei pensa che i rom, quando sentono una cosa del genere, hai capito? Non si armano anche là e cominciano a sparare. O comincia una guerra. Allora, caro Alam, felice di questo, signor, fallo parlare. Cani, crociate, guerre. Allora, io non ho capito a chi ti riferisci però in questa tua incazzatura con Buonanno, con i giornalisti, con Radio. Anche con lei, anche con lei. Io che cosa ho con me? Qual è il mio crimine? Ma come si fa? A far parlare uno come, non lo so, Buonanno, non so chi. Senti, Buonanno è stato eletto da circa 25.000 persone al Parlamento europeo, nazisti, è stato votato da 25.000 nazisti come lui. Questa qua è la sua idea di democrazia, questa è la tua idea di democrazia. È nazista, perché quando uno chiama... Fermo, aspetta. È un nazista, è un malato. Fermo, Alam, devi stare fuori in Parlamento, in un paese di... Sei ancora a casa, Simo? Allora, siamo in collegamento con un signore che si è presentato come di origine rom. Sto dicendo, è rom, Alam, da Bologna, perché non sì, dovremmo credere. Sono rom, da Bologna, come tantissimi signor Cruciani, rom, sì. Qua a Bologna, che lavorano. Diteglielo che pagano le tasse, signor Cruciani, hai capito? E c'hanno i figli che vanno a scuola. Sì. Come lei se non sa che abbiamo un sacco di rom, sì, campioni pure, in Italia. Ci sono dei pugili, certo. Ci sono dei pugili. Scusi, Alam, ma lei come ha trovato casa? Come ho trovato casa? Sì. In agenzia, sono andato da un'agenzia. Ottimo. Come ha trovato lavoro? Come ho trovato lavoro? So fare il mio lavoro, sono andato a fare una domanda e mi hanno... Aspetta, tutto stupendo, meraviglioso, lei ha fatto benissimo. Qual è il problema? Il problema non è lei, caro Alam, ma nessuno nota che è rom. Se lei è rom... Se lei è musulmano, se lei è turcomanno, se lei lo prende in quel posto, se lei invece le piace... È un esempio, chiaramente, Alam. Abbia pazienza, ma sto facendo un esempio. Su, se lei lo prende dietro, se non lo prende, ma che fa? Lei è omofobo e non le piacciono gli omosessuali? No, non è che non mi piacciono, a me mi piace la donna. Quindi... Le piace la figa, le piace la... Va benissimo, perché anche a me, per carità. È rom, è un rom esempio. Ma stai tranquillo, è un esempio. Il problema, caro Alam, che lei rappresenta all'interno della comunità, vastissima comunità rom in Italia, una amplissima minoranza. Gli altri non fanno come lei, non si cercano il lavoro come l'ha cercato lei, non si cercano la casa come l'ha cercata lei. Con un'agenzia, non la cercano perché non la vogliono nemmeno, vogliono vivere nel modo in cui sappiamo, questo è il punto. Vai, dimmi, Alam, dimmi. Ci sono 700 parlamentari in Italia, sono tutti dei ladri. Vabbè, ma questo cosa cavolo c'entra? Bravo. Italiani, sono tutti dei ladri. Ma no! Allora, gli italiani che invadono le tasse, perché sappiamo che è una bellissima... Ma tu adesso stai parlando di che cosa? Della frase di Buonanno? Stai parlando della frase di Buonanno? Non è un ladro? Ma perché non mi fai parlare, Cruciani? Vedi io come sono stato... Fammi un esempio però, ma non ho capito di cosa stai parlando. Ti faccio un esempio. Vado al bar, prendo il caffè, non mi dà uno scontrino. Questo è un ladro o no? Vado dal meccanico, certo, riparo la mia macchina, non mi fa la... Questo è un ladro o no? Vado in pasticceria, allora? Uguale. Vado chi va e dunque? Quindi gli italiani sono tutti dei ladri. Ma no, io ho detto, ho detto che i rom sono la gran maggioranza dell'Italia va a culo così. Scusa, io non ho capito che cosa vuoi dire. Che siccome Buonanno ha detto che rubano, no? Siccome Buonanno ha detto che i rom sono la mafia. La mafia che cos'è? Ma maestro, sei passato dai rom alla mafia, alla masuda. Non sono italiani. Ma tu sei italiano? Come sei italiano o no? No, io sono rom. Vabbè, sei italiano però. No, non sono italiano, sono rom della Romania. Ma che passaporto hai? Rumeno. Non sei italiano? No, vabbè, non sono italiano, ho la carta di soggiorno è indeterminata. Vabbè, ma allora non ho capito che cosa vuoi dire con questo qua. Che dire che i rom sono la feccia della società è sbagliato. Vabbè, abbiamo capito. Voi siete pochi, ma cosa vuol dire? Lei ha i sondaggi, ha i numeri in mano? Certo, assolutamente sì, cioè siamo le persone, le persone di etnia, le persone rom che cercano casa e lavoro come te sono una minoranza. Ma come fai a sostenere una cosa del genere? Perché la verità, lo dicono tutti, anche i suoi, come dire, anche i suoi, i suoi amici rom. Vabbè, non è così, non è così, hai ragione tu. Non è così. Che lavoro fa lei? Che lavoro fa lei? Scusi Alan, ma adesso tutti i rom, lei è arrivato a sostenere che tutti i rom cercano casa come lei, ma di che stiamo parlando? Ma io lo sto battendo tutti, dai, perché tutti gli italiani cercano casa. No, è certo che cercano casa, lavoro. La maggior parte cercano casa e lavoro, sì, certo, la stragrande maggioranza. No, ma perché c'è il papà e la mamma qua. No, amico mio, non è solo così, non è così come dici tu, non è così come dici tu. Non è così. Allora come dice lei, Vabbè Alan, allora dunque alla fine che vuoi fare con Buonanno? Non ho capito, con chi te la prendi? Con Morano, con Cruciani, con Radio 24, con i mass media, con... No, con me la prendo. Sai con chi me la prendo? Con chi te la prendi, dimmi. Me la prendo con l'ignoranza, con l'ignoranza. Abbiamo bravo. Una malattia inguaribile. Hai visto la differenza che c'è tra rom e quella nonna razzista che ha chiamato ieri da Carlo? Che c'entra, cioè, scusa? Culturalmente, tu hai visto la... Ma questo secondo te, ma questo secondo te, l'umanità è che cosa? Ma non mi parli di... Non ti dà mai ragioni! E la nonnina che attraversa la Padania a bordo di un tank? Ma non ti darà mai ragioni, Cruciani, non ti darà mai ragione. Va bene, Alan, grazie. I suoi fratello, amici, bravo fratello, fratello, hai capito? Vai, fai bene, cerchi casa, casa da solo. La radio è con te, Radio 24 è con te. Cerchi casa da solo e cerchi lavoro da solo, cosa che peraltro non fanno gli altri rom. Ma cosa Come non fanno gli italiani, caro Cruciani. Gli italiani non ti preoccupare, gli italiani non c'entra niente qui, italiani o rom. Hai capito cosa voglio dire, lo sai benissimo, ciao. Ciao. Anche lei l'ha capito benissimo. Ah, io non ho capito assolutamente, ciao. Ilona Staller, dopo la nostra intervista in cui ha detto che vuole fare un altro film, che Rocco le sta sulle palle e che deve strisciare davanti a lei per tutto, come dire, per tutto quello che ha fatto, cioè per il fatto di averlo trasformato in un porno divo insieme a Riccardo Schicchi, è stata intervistata dalle Iene. Senti che dice, se Rocco chiede scusa... Di fare la pace. Caro Rocco, se all'Isola dei Famosi mi chiedi scusa ufficialmente, che io dimentico le tue misfattanze e ti prometto che potrai brillare a fianco a me nel mio prossimo film. Come un film? Ma sono 26 anni, non ne fai uno. Annuncio una cosa importante. Salute. Vorrei fare un porno dove faccio del sesso forte anche in gruppo. Insomma. Alla tua età? Ma lo sai che oggi il porno è completamente cambiato da quando lo facevi tu? Non penso che sia così tanto diverso di allora. Sesso forte in gruppo dopo 26 anni, questa è impazzita completamente, ha perso la Trebisonda. Sentiamo ancora che cosa guarda nell'uomo. Cos'è che eccita cicciolina? Essere baciata sulle parti intime. Qual è la parte dell'uomo che ti piace di più? Il sedere. Perché? Non lo so, io trovo che l'uomo abbia un sedere così morsicoso, così palpabile, così... Solo quello? E ovviamente il pene. Ma quanto contano le dimensioni? Non ha importanza quanto è lungo, quanto è grande, ma come si usa. E come si deve usare? Al momento stesso che la donna si apre verso l'uomo, fare una specie di danza di sesso. Dove? Sopra la donna. Vabbè, ok le danze, ma ci sarà una dimensione ideale, no? Così. Non così, così, non grossi. Quanto sarà di centimetro questo? 15. Mi andrebbe bene anche 13. La dimensione ideale per cicciolina è 13 centimetri. Adesso via Corrighello. Beh, amici miei, siamo al top. Siamo veramente al top. Ormai è tutto degradato. Allora andiamo in provincia di Vercelli, Marco. Vai Marco. Ciao Giuseppe. Dimmi, ciao, dimmi. Grazie della maglietta che mi è arrivata un po' di tempo fa. Vi Bene. Racconto una cosa pochissima, una cosa brevissima. Kosovo 1999-2000. Sì. Un anno di permanenza in quel territorio infernale. Ho portato a spasso, per ragioni del mio servizio, per la quale ero lì, in un reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri, parecchie autorità militari, sì, parecchie di tutto. Tra le cose che si andavano a visitare anche gli enclavi Rom. Sì. Allora lì vivono ancora, perché c'è ancora gente che conosco che è ancora lì sul posto, vivono ancora scavandosi il buco nella tenda o nella casa per farci la cacca dentro. Sì. No? Allora, se quella gente viene qua a scavare il buco e a fare la cacca dentro, ritorni al suo posto. Vieni magari qua. Stanno lì, scusami Marco, magari facevano questo perché non avevano altre possibilità lì, o no? No, hanno tutte le possibilità, Giuseppe, hanno tutte le possibilità di mettersi a lavorare, di fare le cose come possono farle là, attenzione, come possono farle là, non hanno le stesse possibilità che hanno qua, ma per chi però sta tu là, dici hanno tutte le possibilità di cambiare quel tipo di vita che fanno, ma perché invece lo scelgono. Ma certo, scelgono di vivere in quel modo, tu vieni qua e poi dopo mi rompi le palle a me perché ti vedo rubare, ti vedo vivere come Buonanno è stato forte nella sua feccia dell'umanità, è stato troppo della forte società, è, sì, della è pure società. è pure paesano mio, ma voglio dire, dai, a dire che sono la feccia dell'umanità, se mettiamo insieme tutta la feccia rimaniamo io e te, hai capito? Io e te, Davide non lo metto, capito? Neanche lui lo metto perché mi rompi i coglioni. Beh, neanche lui addirittura, come capito, se fosse no? Di no, la, a de- no, nemmeno è, lui è che no, nemmeno lui lo metto, perché voglio dire, allora la feccia è tanta, non è feccia, perché non voglio fare il razzista, però non è, però si devono adeguare a un mondo civile. Quindi, come ha parlato il signorino di Bologna all'AM, che dice: Io sono Rom e non siamo tutti così, è tutto. Tu sei uno giusto, continua a vivere la tua vita, certo. Stai bene, non rompere le palle, fai quello che faccio io, paga le tasse. Io sto ancora in giro che lavoro, mi sono fatto 1000 chilometri oggi, va bene tutto, no? Però quelli che rompono i coglioni tornano a casa sua. Sì, ma non solo quelli che, cioè, il signor Allam che ha chiamato prima, va benissimo, l'abbiamo fatto parlare, mamma ha attaccato mia, tutti, ma è un modello assoluto, solo che gli ho fatto presente ottimo, che è una minoranza totale, assoluta. Vabbè, ah, è così invece è il contrario, va benissimo. Ma voglio dire, e poi una chiaro, questa volta più cioè vai contro la realtà, contro la, Parenzo contro la realtà. Vabbè, d'accordo. Vabbè, contro la realtà, come non è la norma quella vecchia che sul carro armato. Ma che c'entra, ma perché te la prendi con la vecchia? Perché quella mi sta sui coglioni. Fammi parlare un attimo a me, Davide, una cosa. Ma cosa c'entra la vecchia adesso? Salviglia con la vecchia. Scusami, fai passare per normale. No, scusami. Vabbè, non voglio sovrappormi, scusa. Voglio dirti darti questo. Anche un pochettino di ragione. Voglio dirti no? Una cosa in più. Fate passare per normale. In pianura padana c'è una vecchia. Non che è, chi ha detto che è normale? Allora Davide, io non ho ancora detto niente di quello. Fammi parlare che ti dico anche questa cosa. Dai, forza. No, te la dico io. Allora, io sono uno che va in giro armato. Sì. Okay. Sono armato per ragioni, mille ragioni che non sto qua a dire. Comunque, che vuol dire in giro armato, Marco? Cioè, non è che uno sono dice armato perché per ragioni del mio lavoro vado in giro armato, un porto d'armi di difesa personale, non vado in giro a ammazzare. Va bene, vado in giro a ammazzare a nessuno. E ti dico anche questo: tutta questa gente che dice che fanno il far west, che fanno tutte queste cose, che vanno in giro il fucile, se vieni in casa io sparo, esco fuori, sparo. Non è qua. Vero, secondo te? Allora, uno non è vero. Numero uno non è vero. Numero due, faccio presente a questi loro signori che se durante la fase REM all'Aldo Giovanni e Giacomo, no, tu dormi bello tranquillo, no, dentro casa tua, con una lampadina, te la punto in un occhio e con una matita ti faccio così sulle guance e ti dico adesso non ti muovo, tu apri gli occhi e vedi tutto rosso. Questa è la realtà, io sono molto razionale. Vedi tutto rosso. Vabbè, adesso tu ci stai descrivendo una situazione, qualcosa che ti buca. Se c'hai il fucile o la pistola sul comodino, sei un coglione, il doppio, perché io prendo la tua pistola e il tuo fucile e poi faccio tutto quello che forse non avevo nemmeno intenzione di fare. Ho capito. Se hai il fucile e la pistola, mettila in cassaforte, tienila chiusa e non farla vedere a nessuno, perché sennò ti ritorna contro. Cioè tu dici tutti questi, allora quelli che hanno sparato l'altro giorno in aria col fucile davanti ma per forza, se stai sveglio, stai lì fuori di casa, appena vedi una mosca volare comincia a sparare, va bene, ma prima o poi ti addormenti. Cioè potevano anche non essere ladri, dici quelli là. Scusami. Va bene Marco, no, ma Marco mi sembra che c'è Parenzo, che li devi dire, non ho capito. No, voglio dire, fai passare per normale, cosa che normale non sono. Non è vero che in pianura padana sono tutti armati, non è vero che in Padania le vecchie girano a bordo di carri armati sparando per le strade. Vabbè, ma chi l'ha detto? Non è vero che le coppie di vecchie viaggiano in macchina con delle matte da golf e dormono con la rivoltella sotto e le bombe a mano sotto il cuscino. Vabbè. Quella vecchia cresciuta alla scuola di Full Metal Jacket è una povera pazza padana. Vabbè, ciao. Ciao. Apri, c'è la Dandola! Voglio dire, io non posso vivere senza cazzo. Ciao, Crucias! Venerdì c'è Alberto Dandolo, però fermi tutti, facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Questa è la frase clou dell'ultima puntata. Amore, io l'ho preso pochissimo perché mi sono fidanzato con uno che si chiama Andrea, uno di buona famiglia, che non me lo dà, un uomo. E no, lui è come un bla car, è un viaggio di sola andata e in condivisione. La settimana prima era stato a casa la Dandola era stata, scusate, a casa della signora Efeball e abbiamo scoperto che oltre al fatto che Efeball aveva preso il colpo della strega si scambiava messaggi con Salvini, secondo il racconto della signora Efeball, transessuale, uno dei più famosi in Italia. Voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano in questo momento, uno per uno, dappertutto. No, non leccare niente, non c'è bisogno di leccare niente. Allora, passami Dandolo che è la voce della verità, che tu menti. Sai che si messaggiano con Salvini, ho letto il messaggino. No, dai, te lo giuro. Non puoi. Ho letto il messaggio di Salvini, che te lo fotografo. Sarà contento. Dai, ma è vero che si scambia. Oh, con le Marchi, con Vanna Marchi e Stefania Nobile. Venerdì scorso abbiamo appreso in prima assoluta in Italia e nel mondo che Vanna Marchi si sposa. Ho una notizia. Dimmi una notizia. Vanna Marchi si sposa. Veramente. Certo. Ma veramente stai dicendo? Allora Stefania, mamma si sposa il 21 settembre? Almeno che lei abbia un grande amore, io sono felice, certo. Allora, questa sera la Dandola ha la febbre. 38 e mezzo, 39, si sta facendo curare in un luogo molto particolare. Mi pare che la cura, cara Dandola, sia whisky e non so che cosa. Ciao Dandola. Mate, senta, lei è proprio un gastronzo. Gli ho detto, mettimi le parti un attimo più carine, perché sono una fase di redenzione. Come fase di redenzione? Che è successo? Come fase di redenzione dal peccato carnale? Dopo le puntate sue, ho avuto dei gravi problemi con la mia psichiatria e anche con il mio animo e voglio ascendere alla purezza. Ecco. Vuoi ascendere alla purezza? Per cui stasera dove sei andata? Certo. Scusa. Io stasera, siccome ho 39 di febbre e mi collego con lei nonostante, diciamo, la febbre. Sì, ma parla meglio, che non ti si sente bene. Parla meglio. Sì, la sento. Sono venuto a casa di una mia grande amica vicina di casa, qui in Piazzale Loreto. Sì. Che mi sta facendo un brodino. Ma come, chi è questa signora, scusa? È la donna di vita. Ma donna di vita? È una prostituta. Cioè, tu così esci da casa, capito? Si chiama Cristina d'Argentina, detta Bocca di Fuoco. Parenzo, capito? Uno esce, c'ha la febbre, e la signora Dandola non è che va a casa di amici, a casa della mamma, eccetera, eccetera. Ma la Dandola è pasoliniana antelitteram, post-litteram. Certo, antelitteram, Parenzo. Volevi dire qui, Parenzo, abbiamo del mate anche per lei, con del whisky. Va bene, allora sei a casa di Cristina l'Argentina, detta Bocco di Fuoco. Va bene, quanti anni ha? Allora, dichiara 50 anni, però secondo me ce ne ha tra i 57 e i 62. Insomma, come fa a fare la prostituta da 57 e 62, scusa? Certo, Certo, lei è gettonatissima, soprattutto nella Milano Under. Gettonatissima, addirittura gettonatissima. Certo, poi ve la passerò dopo, ragazzi. Qua c'è un cambio di tendenza, ma voi non capite. Ma non ho capito, è gettonatissima tra chi ha 60 anni? Ma allora, in questa casa ci sono tanti gatti, quanti e cinture strapon. Sapete cosa sono? Sì, vabbè, adesso non entriamo nel dettaglio, lo strapon, sì, nel vabbè. Certo. Non ho capito, allora ci sono tanti gatti... Gettonatissime, oggetti sessuali, perché siamo a casa... Tanti clienti che chiamano. Sì, di tutto, c'è di tutto. Ma insomma, che tipo di clienti ha una prostituta di 60 anni? Di clienti storici, ho clienti storici, sì. Ho giovani, della Milano anche bene, qui è passato paradossalmente con 4 minuti fa un cliente, che non diremo il nome, ma se vuoi te lo passo, che amano di lei, che cosa? Proprio essere cougar ascendente al Grammy, perché c'è questa nuova perversione. No, ma io non ho capito, però Dandola, fai capire un attimo a Parenzo che non capisce bene. È possibile mai che uno di 20... Parenzo, lei, allora, Parenzo, uno di 26 fatto... anni, uno di 26 anni, dica, di 26 cara. Anni... 24, qua ce n'è uno di 24. Uno di 20, un cliente di 24 anni? Ti a dire cara, che in realtà è un uomo. Vabbè, ma è che è una checca pazzesca, la Dandola. Per me è indifferente, Parenzo. È beh, oddio, se ti sente ad Inolfi che è indifferente. Vabbè, ma scusa, questa signora, 60 anni, ancora questa clienti signora, di 24. Allora, in realtà... Di 24. Chiudiamo questo cerchio, intanto è una delle più famose operatrici del settore a Milano da 40 anni, quindi non prendetemi per il culo, perché qua siamo nella casa del piacere, in Loreto, più importante della città di Milano, per cui parliamo di cose serie, anzi serissime. Ma passamela per 30, voglio sentire la voce di Bocca di Fuoco per 30 secondi, 30 secondi, Bocca di Fuoco, Bocca di Fuoco. Anche due capsule in bocca, però. Ma che vuol dire capsule in bocca? Ma è una roba incredibile. No, fermi tutti, fermi. Bocca di Fuoco, signora. Ciao, tesoro, buonasera. Ciao, Cristina, come stai? Come stai? Benissimo, te? Quanti clienti hai fatto oggi? Quanti clienti hai fatto oggi? Te ne devo contare tutti? No, tutti, dimmi tutti. Quanti? Numero di clienti? Non mi ricordo se 7, 8, 9. Boh, non 7, 8, 9 a 60 anni, ma come fai? Lo so che bene, finalmente. Amore, ho imparato qualcosa nella vita. Siamo veramente al top. Siamo veramente al top. Sì, Parenzo, cosa vuoi sapere della signora Bocca di Fuoco? Questo. Il suo nome Bocca di Fuoco deriva dal fatto che lei ha mangiato molto peperoncino, cara? No, giusto, no. Per capire. E io vorrei... Dovresti venire da me se hai la tendenza del maschile, anche se hai un'altra tendenza, gioia. No, ma io... Volevo solo sapere se questo... Per accontentare tutti io. Questo appellativo... Bocca di Fuoco. Beh, Parenzo, è del chili. È facilmente comprensibile, però, Bocca di Fuoco. Bocca di Fuoco. Uno quando è latino ha il sangue caldo e sono diversa tutte le altre, capito? Va bene, ma come sta la Dandola? Bene, ha la febbre? Vabbè, sta benissimo, gli ho preparato il brodino. Il brodino, alla cioè la prostituta di Turro o di Viale Monza, dove quello che è, prepara di 60 anni, simpaticissima, prepara il brodino alla Dandola. Beh, però mi citare. No, qui mi scrivono un SMS, non mi citare, ma chiedi qual è il suo segreto. Ora, che è un grande professionista, di cui non dirò il nome perché ovviamente... Ma il suo segreto, a 60 anni il segreto quale vuoi che sia? No, mi scrive, non mi citare. Una grande versatilità, una grande chiedi versatilità. Qual è il suo segreto? Qual è il tuo segreto? Il mio segreto? E lei sei tanto porca, amore. Vabbè, certo. Scusi? È tanto porca. È tanto porca, ha detto. È tanto ma porca. Secondo te il venerdì chiusura di trasmissione? Signor Squinzi sarà molto contento, signor Squinzi. Ecco, però è uno spaccato di vita. Vuoi sapere che insomma la chiusura della tua trasmissione? Sì, tesoro, io ci sono tutta notte. Scusi un attimo, lei conosce il signor Squinzi? Sa chi ma è? No, ma dai, eh? Ma che parte su? Lei sa chi è il signor Squinzi? No, no, non lo conosce. Mi ripassi la Dandola, grazie, meglio così. Mi ripassi la Dandola. Sì, Giuseppe, lei in realtà è molto agitata perché sta aspettando non si sente bene. Aspetta 3-4 clienti per fare la lezione di pissing del venerdì. Perché lei è maestra di pissing. No, vabbè, ragazzi, però non possiamo, dai. Siamo non lo so. Chiudiamo qui. Chi ha capito. Dandola, ti prego. Ma meno male che ti volevi redimerti, meno male che volevi guarire dalle tue ossessioni. Ma no, è una redenzione, io aiuto lei a fare. Ma io ti devo mandare da un prete, da un esorcista, già so da chi. Allora, guardi, io ho già preso appuntamento. Dall'esorcista. Certo, Quando vai? Dall'esorcista andrà. Mercoledì dall'esorcista. Ci sentiamo. Noi ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.